la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. Gesù entra nella nostra storia grazie a Maria. Angelus, 21 dicembre 2014. L'arcangelo Gabriele rivela alla Vergine la volontà del Signore che lei diventi la madre del suo figlio unigenito. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Fissiamo lo sguardo su questa semplice fanciulla di Nazareth, nel momento in cui si rende disponibile al messaggio divino con il suo sì. Cogliamo due aspetti essenziali del suo atteggiamento, che è per noi modello di come prepararsi a Natale. Anzitutto la sua fede, il suo atteggiamento di fede, che consiste nell'ascoltare la parola di Dio per abbandonarsi a questa parola con piena disponibilità di mente e di cuore. Rispondendo all'angelo, Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Nel suo «eccomi», pieno di fede, Maria non sa per quali strade si dovrà avventurare, quali dolori dovrà patire, quali rischi affrontare, ma è consapevole che è il Signore a chiedere e lei si fida totalmente di Lui, si abbandona al suo amore. Questa è la fede di Maria. Un altro aspetto è la capacità della Madre di Cristo di riconoscere il tempo di Dio. Maria è colei che ha reso possibile l'incarnazione del Figlio di Dio, la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni. Ha reso possibile l'incarnazione del Verbo grazie al suo sì umile e coraggioso. Maria ci insegna a cogliere il momento favorevole in cui Gesù passa nella nostra vita e chiede una risposta pronta e generosa. E Gesù passa. Infatti, il mistero della nascita di Gesù a Betlemme, avvenuto storicamente più di 2000 anni or, si attua come evento spirituale nell'oggi della liturgia. L'unicità di Giuseppe, udienza generale, 19 marzo 2014. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Guardiamo a Giuseppe come il modello dell'educatore che custodisce e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita in sapienza, età e grazia. Come dice il Vangelo, lui non era il padre di Gesù, il padre di Gesù era Dio, ma lui faceva di papà di Gesù, faceva di padre di Gesù per farlo crescere. E come l'ha fatto crescere? In sapienza, età e grazia. Partiamo dall'età, che è la dimensione più naturale, la crescita fisica e psicologica. Giuseppe, insieme con Maria, si è preso cura di Gesù, anzitutto da questo punto di vista, cioè lo ha allevato, preoccupandosi che non gli mancasse il necessario per un sano sviluppo. Non dimentichiamo che la custodia premurosa della vita del bambino ha comportato anche la fuga in Egitto, la dura esperienza di vivere come rifugiati. Giuseppe è stato un rifugiato con Maria e Gesù per scampare alla minaccia di Erode. Poi, una volta tornati in patria e stabiliti a Nazareth, c'è tutto il lungo periodo della vita di Gesù nella sua famiglia. In quegli anni Giuseppe insegnò a Gesù anche il suo lavoro. Gesù ha imparato a fare il falegname col suo padre Giuseppe. Così Giuseppe ha allevato Gesù. Passiamo alla seconda dimensione dell'educazione, quella della sapienza. Giuseppe è stato per Gesù esempio e maestro di questa sapienza che si nutre della parola di Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe ha educato il piccolo Gesù ad ascoltare la Sacra Scrittura, soprattutto accompagnandolo di sabato nella sinagoga di Nazareth. La missione di San Giuseppe è certamente unica, irrepetibile, perché assolutamente unico è Gesù. E tuttavia nel suo custodire Gesù, educandolo a crescere in età, sapienza e grazia, egli è modello per ogni educatore, in particolare per ogni padre. San Giuseppe è il modello dell'educatore e del papà, del padre. Preghiera per Maria, Angelus, 1 gennaio 2017. Mentre come i pastori contempliamo l'icona del bambino in braccio a sua madre, sentiamo crescere nel nostro cuore un senso di immensa riconoscenza verso colei che ha dato al mondo il Salvatore. Per questo, nel primo giorno di un nuovo anno, le diciamo: grazie, o Santa Madre del Figlio di Dio, Gesù, Santa Madre di Dio. Grazie per la tua umiltà che ha attirato lo sguardo di Dio. Grazie per la fede con cui hai accolto la sua parola. Grazie per il coraggio con cui ha detto: eccomi. Dimentica di te, affascinata dall'amore santo, fatta un tutt'uno con la sua speranza. Grazie, o Santa Madre di Dio, prega per noi, pellegrini nel tempo, aiutaci a camminare sulla via della pace. Amen. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, Edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.